ti ha amato tanto. Per un anno intero, dovrò lasciarti, dovrò lasciarti. Se un altro uomo ha preso il posto che tu avevi nel mio cuore, dovrai scusarmi, dovrai scusarmi. M'hai trattato senza amore, ti ripago col dolore. Io ti ho amato troppo tempo, oramai non c'è più scampo. Questa qui è la verità, è l'amor che se ne va. Ti ho amato tanto, io ti devo abbandonare. Siamo alla fine del nostro amore. Quelle gocce che hai negli occhi, qui è la verità, è l'amor che se ne va, ah, è l'amor che se ne va.